Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Fra poco, con Chiara Albicocco, parleremo di tonnellate di plastica galleggiante. Però adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata. 500 tonnellate di plastica infestano il Mediterraneo. Nel nostro mare la concentrazione di rifiuti supera quella dell'Oceano Atlantico. Lo rivela uno studio di Lega Ambiente. Quali innovazioni si possono introdurre negli elicotteri? I problemi attuali: velocità, rumore e consumi. C'è un dinosauro vecchio milioni di anni bloccato in Tunisia per via della situazione critica del Nord Africa. È in attesa di arrivare all'Università di Bologna per essere pulito e studiato. Da una Vespa, una poltrona. Dalla vasca da bagno, un divano. È la filosofia del riciclo tecnologico creativo. Per la rubrica Domande impossibili, Mebius questa settimana risponde al seguente quesito. Il cucchiaino inserito nelle bottiglie di spumante serve a preservare le bollicine? Stiamo facendo delle cose buone sul fronte dei sacchetti di plastica, che sono uno dei problemi principali per l'inquinamento, soprattutto in mare, Chiara, no? Però, sì. Però abbiamo un primato, sì, sì, sì, sì, che sì. È venuto fuori in un report. Beh, abbiamo due primati, uno buono, che è appunto quello esatto. Dell'aver eliminato il sacchetto di plastica non biodegradabile al supermercato, e l'altro primato terribile invece è quello per cui sembrerebbe, da uno studio che è stato commissionato da Lega Ambiente in collaborazione con le ARPA della Toscana e dell'Emilia Romagna, con una struttura oceanografica che si chiama Daphne, che appunto siamo, il nostro mare, il nostro Mediterraneo è pieno di plastica. E noi abbiamo, se ne contano addirittura, pensa Federico, 500 tonnellate, ecco. Che in termini di plastica, che è leggerissima, sono veramente tante. Sono, no? Veramente tanti. E a questo proposito forse dovremmo farci spiegare ancora meglio il dettaglio di questo studio da chi l'ha svolto, insomma, dal responsabile scientifico di Lega Ambiente, che si chiama Stefano Ciafani. Buonasera Ciafani. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Mi pare che ci sia un problema particolarmente grave tra l'isola d'Elba e la Sardegna. Così, insomma, questo rapporto che voi avete descritto, fatto da due agenzie regionali di protezione ambiente, tra l'altro due tra le 20 agenzie regionali che si occupano più di mare, come la Toscana e l'Emilia Romagna, abbiamo pubblicato insieme sostanzialmente questo rapporto che fa un po' il quadro della situazione della plastica presente nel mare, allora negli oceani in generale, perché si fa anche una panoramica a livello internazionale, nel Mar Mediterraneo e si fa un focus per la prima volta sui mari italiani. E il quadro che emerge è un quadro abbastanza interessante, mi viene da dire. Anche un po' preoccupante, no Ciafani? Assolutamente sì, perché insomma negli ultimi anni si è spesso parlato di questo nuovo continente di plastica, che sostanzialmente è una grande isola di plastica che sta nell'Oceano Pacifico, che diciamo dove si concentrano le plastiche che vengono un po' da altri continenti. Ed è è un'isola molto molto ampia, stiamo parlando di alcuni milioni di chilometri quadrati. Allora si parla sempre del cosiddetto plastic Pacific Vortex, quindi il vortice del Pacifico fatto di plastica, però con lo studio che abbiamo presentato qualche settimana fa emerge che il problema riguarda anche il Mar Mediterraneo e riguarda anche i mari italiani, in particolar modo la zona che dicevate voi, cioè la zona tra l'isola d'Elba e il mare della Sardegna, che è insomma un mare fantastico, un pieno santuario dei cetacei. E emerge da uno studio fatto da un gruppo di biologi francesi che lì c'è una concentrazione 8 volte più elevata rispetto alla media della concentrazione di plastica nel Mar Mediterraneo. Diamo qualche numero, Ciafani, diamo qualche numero. Mi pare che qui voi parliate di 800.000. Sì, 800.000 frammenti di plastica. Frammenti di plastica. Insomma, è una media 8 volte rispetto a quello che è stato verificato in media all'interno del Mar Mediterraneo, in queste spedizioni continue che si fanno con queste battelli oceanografici. E quindi il problema non è solo nel Pacifico, il problema non è solo nel nord dell'Atlantico, dove c'è un'altra grande isola di plastica, ma riguarda anche il Mar Mediterraneo. Siamo in pieno santuario dei cetacei, insomma, quindi il problema riguarda anche purtroppo il nostro paese, e non a caso, come dicevate voi nell'introduzione, l'Italia si è dotata di questa norma innovativa cioè questo bando per la produzione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, perché oggettivamente ha un primato in negativo, che è appunto la presenza di plastica in mare, oltre al fatto che in questo paese fino allo scorso anno si consumava il 25% dei sacchetti di plastica, ecco, sì, consumati sì, nei 27 paesi membri. Anche se, Ciafani, mi collega se sbaglio, bisogna per correttezza dire che le concentrazioni di plastica e anche altri rifiuti che abbiamo non solo nel Mediterraneo, lei citava appunto quelle del Pacifico e dell'Atlantico, arrivano in quei punti perché sono dei punti particolari, singolari, che in un dato bacino acquifero, no, concentrano delle correnti, dei vortici, sì, quindi sì, lì noi tra Elba e Sardegna possiamo benissimo avere sacchetti che arrivano anche dal Libano, ecco questo che va detto, sì, sì, no? Sicuramente, diciamo, sono concentrazioni che derivano dalle correnti che confluiscono in questa zona particolare. Le correnti in quella zona sono più o meno, derivano, toccano quelle che sono, come dire, un po' le coste soprattutto dell'Italia, non solo ovviamente, ma soprattutto dell'Italia. Quindi, insomma, l'Italia del suo contributo non è l'unico contributo per, come dire, lo sversamento delle plastiche in mare, su questo sono d'accordo con lei. Su questo ho una curiosità, siccome le tonnellate sono tante, indubbiamente, noi abbiamo parlato di sacchetti, ma forse la natura, voi l'avrete anche studiato nel vostro reportage, la natura di questi frammenti, di questa plastica così, qual è? Cioè, da dove deriva? Che cosa potremmo fare in realtà di concreto per poter in qualche modo arginare questo problema? Perché non sono solo sacchetti. No, certo, sono pezzi, sì, in generale, diciamo, è vero. Sì, diciamo, ovviamente i frammenti plastici trovati sono plastica che deriva da diversa origine, ovviamente. Allora, la gran parte della plastica sottile, quella più leggera, che è quella che anche quella più pericolosa, perché galleggia in acqua e viene scambiata dai grandi cetacei come cibo, come piccole meduse, insomma, quindi è la plastica quella più insidiosa per la fauna marina. La plastica leggera è soprattutto costituita da frammenti di buste di plastica. E dal primo di gennaio, diciamo che questi sacchetti di plastica sono abbastanza banditi nel nostro territorio. Si può auspicare, sperare che negli anni prossimi magari uno studio di questo genere riveli appunto una netta diminuzione di questo tipo di scarti? Questo è il nostro augurio, ovviamente. Insomma, questo è un bando che è in vigore dal 1 gennaio 2011. Gli italiani devono, per fronteggiare questa emergenza ambientale, devono cambiare un po' le abitudini, devono tornare alle abitudini di 20 anni fa, di 25 anni fa, quando una generazione fa si andava a fare la spesa con la sporta riutilizzabile, con la retina, con la retina di tessuto. Bene, allora aspettiamo il prossimo rapporto per vedere se siamo scesi. Sì, sì, io sono ottimista, ottimista per sì, chilometro quadro. Grazie, Ciafani. Speriamo proprio di sì. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti, che adesso siamo al nostro quiz. Anche in questa puntata il nostro quiz, forse faremo così sempre, vedremo, non lo so, vediamo, è direttamente connesso il nostro quiz alle domande di scienza che ci state inviando. Quindi la risposta giusta la saprete fra poco, quando affronteremo il tema cruciale del cucchiaino, perché di questo si parla. Tema che è il seguente: è vero o no che un cucchiaino da caffè messo al posto del tappo in una bottiglia di spumante o di champagne, dipende dai mezzi, evita che il prezioso liquido perda le sue bollicine? Grande storico interrogativo. Quindi tre possibilità: sì, ci scriverete sì; no, ci scriverete no; terza e ultima: sì, però solo per poche ore e non per giorni, come si è soliti pensare. Quindi ci scriverete sì, no, dove? Beh, con il solito SMS ci scriverete al 349 238 6666. Il libro che si vince è E-Collaboration, il senso della rete, metodi e strumenti per la collaborazione online. Autori vari, edizioni Apogeo. In collaborazione con IBS.it. Eh sì, sono loro i re e le regine dei cieli, le grandi aquile o i gabbiani, ma in fondo anche i passeri, insomma, sfrecciano in cielo come aerei, ma poi atterrano in 20 centimetri quadrati come gli elicotteri, noi invece, che comunque da soli già non vogliamo, dobbiamo usare due mezzi diversi per volare in questi due modi, aereo o elicottero, appunto. Qualcuno penserà a certi aerei come gli Harrier, quei caccia militari che scendono e decollano verticalmente, ma attenzione, sono oggetti che si possono usare solo in quella costosissima vicenda che è la guerra. Un singolo volo di un Harrier costa come diversi voli di un jet di linea, e così già ci stiamo avvicinando al tema che vogliamo affrontare. Degli aerei noi tutti un po' di cose le sappiamo, anche di innovazioni in arrivo, per esempio motori meno rumorosi, possibilità di usare in volo cellulari e computer connessi alla rete, ma sugli aerei viaggiamo da tempo. Ma chi va in elicottero? Pochissimi, ed ecco che di questo mezzo sappiamo davvero ben poco. Per parlare di elicotteri, io ho qui con me questa sera ospite Massimiliano Lanz. Buonasera Lanz. Buonasera. Del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, e l'occasione per parlare di elicotteri ci arriva da un accordo di cui parleremo fra poco tra il Politecnico e un'azienda che certamente di elicotteri se ne intende, perché è l'Agusta. Senta Lanz, prima di arrivare a questo accordo che ha alcuni aspetti estremamente interessanti, dicevo prima, effettivamente noi dell'elicottero sappiamo poco niente, cioè li vediamo da tanto tempo svolazzare a volte anche sulle città che trasportano personaggi importanti, però per esempio a me verrebbe naturale dirle: avete fatto un accordo per fare della ricerca, quali sono le cose importanti che bisogna ancora sviluppare, cambiare, qual è lo spazio di innovazione negli elicotteri? C'è la speranza forte dal mondo aeronautico che l'elicottero diventi una macchina con diffusione molto più elevata nella vita corrente. I problemi principali sono essenzialmente attualmente quelli della riduzione dei costi, come diceva lei, la riduzione del rumore, sia interno che esterno. Cioè la macchina, l'elicottero ancora oggi, come diceva lei, è una macchina in cui quando atterra in un posto ci se ne accorge, cioè si fa sentire sia esternamente che internamente, cioè anche il comfort interno, affrontare un lungo viaggio può essere non poco confortevole. Poco confortevole, meno confortevole che un velivolo. E l'ultimo problema è quello della velocità, cioè l'elicottero ha un grosso limite in fisico, un rotore mentre vola a taglio della velocità, vede una somma delle velocità sulla pala avanzante, una sottrazione sulla pala retrocedente che fa sì che ci sia un limite fisico alla macchina che non può superare normalmente i 220 nodi di velocità massima. Quindi ecco, i campi di ricerca sono questi. Vorrei riprenderli un po' in fila facendole alcune domande. Ecco, lei per esempio diceva questa cosa del rumore. Certo. Poi dopo noi vediamo dei filmati dove ci sono anche degli elicotteri con dei comodi divani all'interno, ma in realtà quando si vola con un elicottero c'è un gran baccano. Certo, c'è un gran baccano, ci sono anche un elevato livello vibratorio, cioè a bassa frequenza sono percepite dai passeggeri come vibrazioni, cioè non è così confortevole come volare su un jet, un business jet, volare su un elicottero, e c'è un rumore decisamente più elevato di quello di un velivolo convenzionale. Questo io penso che probabilmente molti di noi non lo immagina. Sì. L'altra cosa invece dei consumi, che lei accennava proprio all'inizio, ecco, c'è una differenza impressionante tra il consumo di un velivolo anche privato, jet, e un elicottero? In relazione alla velocità senz'altro, cioè per sollevare, come diceva lei nell'introduzione, verticalmente una macchina sono necessarie delle potenze molto più elevate rispetto a quello di farla decollare, cioè un normale velivolo dell'aviazione generale oggigiorno, un ultraleggero, richiede magari poche decine di cavalli per decollare, una macchina di medie dimensioni normalmente richiede centinaia di cavalli per decollare. La velocità, bene, allora c'è un'elica che lo tira su, sì. Però poi una volta che in aria non gli si potrebbe mettere un paio di motorini jet e ottenere delle velocità superiori, perché questa cosa che lei diceva, ormai c'è, come dire, un limite standard oltre il quale non si riesce ad andare, no? Che sono quei, cosa sono? Ha detto 250... 220 nodi, sì. 220 nodi. In chilometri? Sono 110 metri al secondo, 360 all'ora. Ecco, sembra di più non si può andare, ma non si può neanche fare una cosa di questo genere, cioè mettere un motore insieme alle pale dell'elicottero? Guardi, c'è stata un'attività dagli anni 50, da quando primo elicottero ha volato e continuata nei giorni nostri, a trovare soluzioni, come diceva lei, per esempio di macchina che decolla con un'elica e poi sposta la portanza su un'ala e attiva dei motori a getto per la propulsione. Questi tipi di soluzioni hanno sicuramente un peso al decollo maggiore, nel senso che in una delle due funzioni, una delle due unità è inutilizzata, quindi siccome nel nostro mondo il peso della macchina è una questione fondamentale, perché si gioca la possibilità di alzarsi dal suolo, molto spesso tutte queste altre soluzioni hanno rappresentato un peso maggiore, un costo maggiore e molto raramente una velocità maggiore. L'unica soluzione che ultimamente si sta arrivando sul mercato, pur con molta fatica, è quella del tilt rotor, quello italiano convertiplano, cioè essenzialmente l'attuale architettura sono un velivolo a pale, come un velivolo ad ala fissa, con due gondole motrici poste all'estremità che sono come dei due rotori nella situazione di decollo. Quando il velivolo si alza verticalmente vengono fatte ruotare e diventano delle eliche. Bene, su tutti questi temi l'accordo che è stato fatto tra Politecnico Augusta per fare ricerca sugli elicotteri interverranno, solo che cerchiamo di farlo capire a chi ci ascolta: questo accordo ha una particolarità proprio, come dire, amministrativo, burocratica, estremamente interessante, perché viene a crearsi un centro di ricerca stabile, quindi non è un contratto oppure un accordo per tutta una serie di contratti di ricerca. Qui viene, come dire, a crearsi addirittura proprio qualcosa di fisico che ha una stabilità, e questo è raro. Questo è molto raro nel nostro ambiente. In questo momento noi, forse non è noto all'opinione pubblica, ma stiamo fortemente soffrendo del fatto che il turnover è limitato al 50%, cioè allo stato attuale con i regolamenti vigenti, quando un docente va in pensione non può essere sostituito totalmente, ma solo al 50%. Metà, certo. Questi limita notevolmente la capacità di attrarre giovani persone nel mondo della ricerca. Ecco, ma per chiarire meglio ancora questo accordo, Augusto, vuol dire che ci sono fondi che vanno a creare posti di ricerca per persone che in termini numerici restano stabili, se no voi avete della gente che entra dentro e poi scompare, anche perché con i fondi che hanno normalmente a disposizione l'università viene fuori che un dipartimento mette alcuni a fare ricerca, poi dopo 2 o 3 anni non c'è più la possibilità di tenerli, allora si ricomincia da capo. Qui invece c'è anche la possibilità di sviluppare una conoscenza che andrà avanti. Certo. Oggigiorno una persona si laurea a 25 anni, può permanere ragionevolmente nel mondo della ricerca universitaria senza, come dicevo prima, trovare una situazione permanente per 2 anni. Essendo chiuso l'accesso del mondo universitario, questo, come dicevamo prima, crea dei problemi di discontinuità, cioè ogni 2 anni questa persona siamo noi che dobbiamo spingerla, perché altrimenti rischia veramente di bruciarsi. Massimiliano Lanz, grazie e auguri per questo nuovo centro. Grazie a lei, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, non c'è niente da fare. In questi ultimi mesi Bologna è sulla cresta dell'onda per quanto riguarda le notizie scientifiche. Qui a Mebius abbiamo parlato più volte di fusione fredda, adesso andiamo da tutt'altra parte e parliamo di dinosauri, che però proprio sì, sono connessi con Bologna, ma di questo dinosauro di cui dobbiamo parlarvi viene dalla Tunisia. È una cosa quindi un po' diversa. Ne parlo con Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Sì, parliamo di un dinosauro che ne ha viste di tutti i colori, effettivamente capita se si sta in giro sulla Terra per un centinaio di milioni di anni, come nel suo caso. Viene dall'Africa, ha vissuto in un ambiente umido, poi si è trovato seppellito in un deserto, è rimasto per diversi milioni di anni, decine di milioni di anni sotto le rocce, e alla fine si è trovato impelagato in una rivoluzione, addirittura bloccato dalla mancanza dei documenti che gli servirebbero per emigrare. Ma pensa tu. È un dinosauro tunisino, è stato scoperto dalla collaborazione di paleontologi tunisini e italiani, e sarebbe già dovuto arrivare a Bologna da diverse settimane, ma è stato bloccato dall'instabilità del Nord Africa. E uno dei suoi scopritori è Federico Fanti dell'Università di Bologna. Buonasera Fanti. Buonasera, buonasera a voi. Allora, ci dica qualcosa di questo dinosauro che dovrebbe arrivare a Bologna. A Bologna dove lo mettete? Primo alloggio, in un certo senso, sarà al Museo Geologico Giovanni Cappellini, nel senso che la nostra priorità è stato prima metterlo in sicurezza sul terreno e poi garantirgli un degno laboratorio per la preparazione per l'analisi. È un grosso dinosauro erbivoro che noi stimiamo aver raggiunto più o meno i 15 metri di lunghezza, quindi c'è la necessità oggettiva di preparare un laboratorio degno di un tale reperto. E mi pare che sia in condizioni ottime? Sì, è davvero preservato molto bene, si è preservato all'interno di una sabbia relativamente fine che per oltre 100 milioni di anni lo ha conservato perfettamente fino ai giorni nostri. Diciamo subito che è un ospite temporaneo, non si stabilirà in modo permanente qui in Italia. Certo, come tutti i fossili in tutte le parti del mondo, è proprietà dello stato in cui viene scavato. Noi mettiamo a disposizione le nostre conoscenze, i nostri laboratori per la preparazione e lo studio, dopodiché giustamente tornerà terminati i lavori in Tunisia, dove lo affideremo ai nostri colleghi. Per il momento voi sapete che si tratta di un erbivoro, non sapete ancora che erbivoro era, però viste le sue dimensioni potete ipotizzare che a quell'epoca il deserto in cui l'avete trovato fosse molto più ospitale. Certamente, basti pensare che una sola vertebra è grande più o meno 50 centimetri, quindi le dimensioni dell'animale sono certamente ragguardevoli. E un animale di 10-15 metri di lunghezza certamente non sarebbe potuto sopravvivere nell'ambiente che conosciamo oggi in Tunisia, cioè desertico. All'epoca il clima era decisamente caldo, ma anche più umido, con una vegetazione in grado di supportare una fauna di questi grandi animali erbivori. E anche dal punto di vista geologico, noi adesso parliamo di Tunisia, al di là dal mare, per quanto vicina, ma era tutto molto diverso, no? Sì, quella che oggi è la costa nordafricana, all'epoca era una sorta di area intermedia tra Europa e Nord Africa. E sono molti gli studi che stanno dibattendo proprio per verificare quando e come fosse possibile per questi animali transitare in un certo senso da un lato all'altro di questo tratto di mare. Qualcuno dice che addirittura fossero unite. Ci sono dei dati in particolare, i resti a dinosauri e le impronte di quest'ultimi, che sono assolutamente identici da un lato all'altro del Mediterraneo come lo conosciamo oggi, e di conseguenza è stato ipotizzato che esistessero delle vie emerse all'interno di questo bacino che permettessero ad animali anche di grande taglia di camminare letteralmente da un lato all'altro del Mediterraneo. E quindi poteva anche arrivare a Bologna, diciamocelo. Sì, in quella che adesso noi conosciamo come la zona di Bologna. Ma voi avete condotto la vostra campagna di scavi l'ultima a marzo, avete quindi superato, diciamo, la data della principale rivolta tunisina. Come è stato lavorare in questo periodo in Tunisia su una ricerca di questo tipo? Noi abbiamo cominciato ormai dal 2009 a fare gli scavi in Tunisia e di conseguenza abbiamo messo insieme un po' di organizzazione sul terreno. La missione di marzo è stata spostata di un paio di mesi a causa proprio della situazione di emergenza che si era creata in Tunisia, ma devo ammettere che una volta superata la fase di crisi non ci sono stati problemi legati alla situazione sul territorio, nel senso che le collaborazioni che abbiamo in atto e i nostri colleghi tunisini ci hanno dato man forte per portare a termine le missioni sul terreno. Ecco, il dinosauro non l'avete ancora estratto totalmente dal terreno, quando è la vostra prossima campagna? Stimiamo che almeno un'altra metà di questo dinosauro sia ancora da scavare e solitamente per lavorare nelle migliori condizioni climatiche il periodo ideale sarà l'autunno. Speriamo in quest'autunno, nei mesi di ottobre e di novembre, di organizzare una nuova missione sul terreno e completare quello che abbiamo cominciato. E speriamo anche che il dinosauro arrivi quanto prima a Bologna. Assolutamente sì, tempo di sistemare i documenti necessari al viaggio e poi lo aspettiamo qui al Cappellini. Bene, grazie Fanti e auguri per la ricerca. Grazie mille, saluto. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Al recente Salone del Mobile, che si è chiuso il mese scorso a Milano, un gruppo significativamente ampio di giovani designer ha presentato dei prodotti, degli oggetti molto vari fra loro, alcuni divertenti ma utili, perché ci si siede sopra per esempio, altri altrettanto utili ma con obiettivi decisamente seri. Però, ecco il punto, sono tutti oggetti costruiti riciclando tutto, ma proprio tutto. Sentite questi casi e vi sarà chiaro cosa vi ho appena detto. Il Matteo Aldo Menduni. Allora, questa era la sua Vespa. Sì. E adesso è diventata? La Vespoltrona. Una poltrona. Una poltrona. Sappiamo tutti com'è fatta la Vespa. Qui ci sono le sue due famose chiappe. Sì, i due sportellini laterali dove alloggia da una parte il motore e dall'altra la ruota di scorta. Questi due pezzi della Vespa sono staccati tra di loro da una seduta di una poltrona. Sì, sì, sì, con un alcantara sintetico. C'è anche un autoradio con CD, con lettore CD. Sì, io riutilizzando materiali e avendo avuto una formazione tecnica, mi sono un po' divertito, diciamo, a costruire qualcosa che attirasse un po' l'attenzione e che intrattenesse nella seduta, nel relax. E quindi ho inglobato in questi due sportelli, che sono aperti da un meccanismo elettrico, riutilizzando due motori di un tergicristallo di una Ford Fiesta, ho integrato appunto da un lato il lettore CD autoradio e dall'altro un porta CD illuminato da il neon di uno scanner, anche quello riciclato da uno scanner. E quindi abbiamo l'hi-fi incorporato. E quindi abbiamo l'hi-fi nella poltrona. Però io qua ci tengo anche a sottolineare, naturalmente la poltrona ha come piedi le due ruote della Ovviamente, Vespa. Lateralmente ho voluto ricreare la stessa sensazione di vedere una Vespa. Nicoletta Raffo, della Facoltà di Architettura di Genova, all'interno della quale però si è costituito un gruppo di lavoro che fa? Noi abbiamo collaborato con Designer Senza Frontiere per affrontare un tema che è veramente vasto, che è quello dei sud del mondo e di un design sensibile alle varie circostanze che possiamo trovare. Adesso parliamo di uno che, attenzione, molto singolare. Dobbiamo immaginare, le abbiamo in mente tutte quelle immagini di città, periferie di città nel sud del mondo, dove abbiamo decine e decine di migliaia di persone che vivono sostanzialmente sulla spazzatura, con intorno spazzatura. E qui vedo sembra una tenda da campeggio. Esatto, noi abbiamo pensato che con questa spazzatura, che è composta quasi soltanto da sacchetti, si poteva ottenere un filato molto semplicemente tagliando questi sacchetti a striscioline e tessendolo, ottenere un tessuto resistente e impermeabile con cui facilmente si può costruire una cosa che ha molto a che vedere con una tenda da campeggio, la cui struttura è costituita da dei giunchi che si possono ritrovare in zona. In particolare il nostro progetto prevede come prodotto finale delle istruzioni composte solamente da disegni da inviare nei luoghi affetti da questo problema, in modo tale che appunto con la sola spesa di questo foglio di carta si possa spiegare alla gente come tessere questo tessuto e utilizzarlo per tutto quello che appunto ne si può ricavare, come isolante ad esempio, in particolare come ottenere questo rifugio. E qui vedo tutte le immagini, si segue una per una. C'è un processo intero di costruzione, anche come si devono legare insieme i pezzi di legno per avere delle parti strutturali. Esatto, partendo dal sacchetto, come ottenere il filato, come poterlo tessere nel modo più semplice possibile, unire questi pezzi di legno e ottenere questo. Ma tutto questo punta ad avere una piccola tenda per uno o due persone. Esatto. Perché? Perché questa gente spesso e volentieri dorme sulla spazzatura. Esatto, il problema è che spesso in questi posti non abbiamo neanche quasi una baracca in cui vivere. Si è discusso molto in questi ultimi anni di questo genere di iniziative, anche per esempio nelle favelas, queste brasiliane, sudamericane, che si tenta con alcuni progetti di rendere vivibili. Si è discusso molto del fatto che bisognerebbe risolvere il problema monte. Mi pare che la filosofia nella quale voi vi inserite è tutti gli sforzi possibili per risolvere il problema a monte, ma anche fare tutto il possibile per migliorare le condizioni. La filosofia è questa? La filosofia è assolutamente questa nei vari progetti, che appunto alcuni prevedono di avere dei materiali che possano essere riutilizzati anche in questo caso per ottenere una sedia a rotelle o dell'arredamento che possa essere creare occasioni di lavoro ed essere venduto da noi in Occidente, in particolare in Europa, o anche con materiali di riciclo come i bancali, costruire un arredamento assolutamente low cost che sia anche intelligente dal punto di vista funzionale, che risolva il problema dello spazio, ad esempio per questioni come le favelas. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Progetti nei quali cose nuove nascono da tante cose vecchie. Stavamo parlando di questo prima delle notizie sul traffico, vi abbiamo raccontato due esempi, vediamo l'ultimo, eccolo qua. Oh, dunque qui vedo una vasca da bagno che è diventata un divano. Qui vedo di fianco a me Matteo Salvadori del collettivo Fresco, Free and Shout Collective, e anche voi prendete cose che si buttano via. Qui ovviamente la vasca da bagno da una parte è stata intagliata. È stata ritagliata con un flessibile, uno strumento da officina, diciamo, per potervi accedere. La trasformazione del pezzo è sempre funzionale all'utilizzo che se ne deve fare, insomma. Quindi in questo caso la vasca è diventata un divano a dondolo, quindi con un lato intero aperto, mentre nel caso delle poltrone viene semplicemente divisa a metà la vasca e si ricava una seduta singola. Da una vasca se ne fanno due. Da una vasca se ne fanno due. Si fa addirittura, la vasca si può ricavare due sedute più un poggiapiedi o un tavolino eventualmente, perché la parte centrale ribaltata risulta, cioè diciamo che non si butta via niente. Sono molto contento, Chiara, che fra le prime domande che ci sono state fatte, inviate, sì, le domande scientifiche dagli ascoltatori, ci sia un grande, grandissimo classico delle incognite scientifiche, che è quello del cucchiaino. Cucchiaino. Fiorenzo, il nostro ascoltatore, ci dice qual è questo quesito. Buonasera, come mai quando si inserisce il cucchiaino in una bottiglia di spumante aperta tiene meglio le bollicine rispetto che non ad esempio prendere quei bellissimi tappi da 25 euro che le tengono sigillate? Ecco, lei ha provato. Sì, sì, ho fatto un esperimento a casa. Avevo comprato i tappi per riuscire a mantenere gli spumanti, che solitamente non costano pochissimo, non riesco a berlo tutto in una volta, diciamo. E l'unica maniera che mi ha fatto tenere le bollicine per più giorni è stato, su consiglio di mia madre, quello di mettere un cucchiaino nel collo della bottiglia. Antichissimo consiglio. Antichissimo consiglio, diffusissimo consiglio, di cui adesso ci parlerà. E mi raccomando, Fiorenzo, rimanga in linea e tenga le orecchie ben tese, perché magari ci saranno delle sorprese, e ci racconta tutto appunto Franco Battistuta, ricercatore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università di Udine, che sa tutto sulle chiusure delle bottiglie. Buonasera, dottor Battistuta. Buonasera a lei. Buonasera. Ecco, si allora sciolga il problema. Lasciamo a lei il microfono, ci racconti che cosa succede nel collo della bottiglia dello spumante. Allora, c'è questa storia, c'è questa leggenda metropolitana, oserei chiamare, che gira e che non è assolutamente comprovata da nessuna prova reale, prova fatta scientificamente. In realtà, quando noi stappiamo una bottiglia di spumante, abbiamo un eccesso di gas, di CO2, disciolto all'interno del liquido, che deve liberarsi secondo le leggi della chimica e della fisica. La velocità con cui questo gas si libera dipende da una serie di fattori che sono temperatura, caratteristiche dello spumante, eventuali shock meccanici esterni come può essere l'agitazione o la vibrazione. E normalmente nella pratica quotidiana, quando noi stappiamo una bottiglia e non la consumiamo interamente, la cosa migliore da fare è mettere di nuovo un tappo per tenere l'ambiente interno